Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria delle donne, soprattutto per quello che riguarda l'economia, abbiamo molto parlato ieri. Il tema è soprattutto le quote rosa, poi avete quote di genere. Tra l'altro oggi appunto in Commissione Senato la legge, mentre ieri sera, come vi hanno ricordato i nostri GR, è arrivato un accordo su quello che è il disegno di legge caldeggiato dal ministro Sacconi, che prevede tutto un insieme di novità, poi magari le racconteremo, per quello che riguarda le donne che lavorano, a partire dai permessi per il figlio fino a 8 anni di età, permessi non retribuiti, dell'utilizzo del telelavoro e non solo il part time, tutto un insieme di elementi che dovrebbero portare a migliorare quella che è la classifica italiana in Europa, che ci vede all'ultimo posto sia come donne che lavorano quando hanno un figlio, due figli, tre figli e via di questo passo. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, ci occuperemo soprattutto di tassi di interesse. Perché? Perché si stanno muovendo tutti i rendimenti per quello che ha a che fare con il mondo delle obbligazioni, i rendimenti di Grecia, che ha pagato tassi più alti nell'asta odierna, e anche il rendimento di tutta quella cosiddetta area periferica del Mediterraneo, quindi Portogallo, ma non solo. Detto ciò, c'è anche da notare come lo spread, ossia la differenza tra quanto rende un titolo tedesco e un titolo portoghese, in questo caso è salita di nuovo a un livello molto molto alto, vicino al livello da record, quindi 465 punti e 430 punti oggi contro i 456 punti del record, vuol dire 4,56% di differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e un'obbligazione portoghese. Salito anche lo spread dei titoli irlandesi, più contenuto l'impatto sui titoli italiani, che hanno tassi al 4,93% e un premio di rendimento all'1,6%. Parleremo di questo nella seconda ora del programma, perché anche oggi il numero uno della Banca Centrale Tedesca, Axel Weber, ha ricordato come la Banca Centrale Europea dovrebbe rialzare i tassi di interesse nell'arco del 2011 di quasi un punto percentuale, 75 punti base. Di solito la Germania ha buone notizie, ha notizie più che buone, corrette, approfondite, visto che è molto importante, diciamo, il peso tedesco nei confronti delle decisioni della Banca Centrale Europea, e ci si interroga, ci si chiede quanto potrà reggere per la ripresa economica con tassi di interesse in aumento. Partiremo subito con il dato che invece riguarda i prestiti alle banche e alle imprese. Perché oggi la Banca d'Italia fa notare che sono calati i costi per le imprese di rifinanziare il proprio debito, mentre sono aumentati i costi per le famiglie nel rifinanziare il loro debito. Comunque, rapidamente le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo come sempre dalle borse. Perché? Perché oggi i mercati, per quello che riguarda l'Europa, sono misti più che mai, nel senso che se Milano guadagna lo 0,60%, Francoforte perde lo 0,16%, Parigi è invariata, Londra perde lo 0,40%, l'America guadagna lo 0,60%. Non possiamo parlare oggi di una giornata omogenea sui mercati. Da noi il rialzo quasi più alto di tutti, ma non si chiama Bulgari ha dato tutto ieri, ha fatto quasi il 60%, si chiama Pirelli, più 3,1, Telecom più 2,40, Fiat più 2,2 come Tenaris, ST Microelectronics più 1,90, Eni più 1,70, Impregilo più 1,4%, Fiat Industrial, ossia trattori e camion, più 1,40%, Intesa San Paolo più 1,1%. Chi perde? Perde Autogrill soprattutto oggi, perché abbiamo difficoltà a capire, lo faremo durante i mercati finanziari, perché i conti diffusi oggi da Autogrill sono molto buoni, più 7% il fatturato e torna anche il dividendo, quindi la divisione, la distribuzione dell'utile ai vari azionisti, un dividendo di 24 centesimi di euro per azione. Il titolo però reagisce male in borsa ed è il peggiore, perde il 5% in questo momento. Volete già sapere di Pirelli? Pirelli sono i conti diffusi da Pirelli, l'utile 2010 a 4.200.000 euro, il dividendo sale a 0,16 euro, quindi 16 centesimi di euro, e il titolo va molto bene, più 3,14% appunto. La benzina e il petrolio. Allora, a Londra il Brent, il petrolio del Mare del Nord, è calato oggi, non di tanto però, a $114 contro i 115 di ieri. In America invece i primi scambi sul WTI, quindi il West Texas Intermediate, come si chiama in gergo il petrolio che fa da riferimento in America, vedono invece un rialzo a $105,7 al barile. Quello che interessa a noi più che altro è l'effetto sulla benzina. €1,61 al sud, gli aumenti decisi da Esso, IP, Kuwait, Tamoil e Total Erg, e appunto €1,61 al sud. Si contrappone un nord-est invece dove le compagnie si mantengono poco oltre €1,55 al litro, con punte minime di €1,52 al litro. Pesano quindi il prezzo del petrolio, ma anche la speculazione internazionale e il cambio euro-dollaro, che però insomma, è a 1,38-1,39, per cui... Questa è la giustificazione dei petrolieri, quindi il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, l'abbiamo avuto ospite decine di volte, tanto non si ottiene mai un ragionamento che a noi convinca. E vorrei tornare però su questo tema, perché molti ci hanno scritto, guardate che i calcoli sono sbagliati. Io allora vi rileggo gli ultimi calcoli che abbiamo aggiornato a oggi. Costo del petrolio nel 2008. $147 al barile, ossia €93 con il cambio di allora, era 1,58. Costo del petrolio oggi, $115 al barile, ossia €82 con il cambio di oggi a 1,39. E praticamente la benzina costa uguale, anche se continuano a esserci €11 di differenza, dopo aver calcolato la differenza tra euro e dollaro, rispetto al 2008, e noi continuiamo a non capire, mi dispiace per chi ci critica. In Cina i funzionari del partito e del governo stanno pensando a una modifica della legge sul figlio unico, promettendo ai genitori di averne almeno due. Praticamente il 2015 potrebbe essere la data della sperimentazione concessa per prima ai genitori che sono già stati a loro volta figli unici. La Cina è il mondo capovolto, cresce troppo, noi cresciamo troppo poco, ha un'inflazione da tenere sotto controllo, fanno troppi figli, insomma tutto l'opposto che qui in Europa. Arriviamo al tema del rapporto banche imprese. Prima di tutto però vi vorrei fare ascoltare, anzi lo facciamo dopo, sulle donne, il dato di oggi diffuso dall'Istat, dall'INPS, dall'INAIL, e anche la percentuale di donne giovani in part time, dice l'Istat, non è una scelta. Partiamo prima con il tema del rapporto mondo delle imprese, mondo delle banche, e soprattutto come stanno andando le piccole, piccolissime imprese. La scorsa settimana Union Camere ci ha raccontato che c'è il saldo tra nati e morti è tornato a essere positivo, quindi sono nate più imprese di quelle che hanno chiuso. Oggi però il CERVED, che è un gruppo che fornisce informazioni di business, di economia e di finanza, leader in Italia, che soprattutto sulla solvibilità e la struttura economica delle imprese, ha regalato, se così possiamo dire, una doccia fredda, perché ha scoperto che siamo a record invece nel 2010 quanto a fallimenti di imprese. Più di 11.000 le imprese fallite nel 2010, il valore più alto da quando tra il 2006 e il 2007 è stata riformata l'intera disciplina sulla crisi di imprese, che di fatto ha escluso un numero rilevante di piccole imprese dall'applicazione del fallimento, perché altrimenti il numero sarebbe stato probabilmente ben più alto. Le procedure di bancarotta sono aumentate di circa il 20% rispetto al 2009, anno che già aveva accusato una crescita del 25% rispetto al 2008. C'è però qualche segnale positivo, allora cerchiamo di commentare il tutto con Gianandrea De Bernardis, che è appunto l'amministratore delegato di CERVED Group. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera a lei. Allora, prima domanda, come sta assieme il dato vostro, cioè di record di fallimenti di imprese e procedure di bancarotta, con il dato di Union Camere, quindi le Camere di Commercio italiane della settimana scorsa, che segnalava che per la prima volta tra imprese nate e imprese morte il saldo fosse tornato positivo dopo la crisi? Beh, direi che in ogni caso è coerente, no? Ci sono stati un gran numero di fallimenti, ma per fortuna c'è lo spirito imprenditoriale ha spinto una nuova natalità. E anche se il numero, come dicevamo noi, è molto consistente, soprattutto visto rispetto agli anni passati, il terzo anno consecutivo con crescita a due cifre. Anche se che qualche dato positivo c'è, no? I dati destagionalizzati indicano che c'è una importante riduzione dei fallimenti nel quarto trimestre rispetto al picco del terzo trimestre 2010, per cui insomma questo ci lascia un moderato ottimismo. Ecco, che caratteristiche hanno le imprese che sono fallite, brutto chiamarle così, ma insomma dal punto di vista del settore sono più nei servizi, nell'industria? Direi assolutamente nell'industria, il dato è chiaro come incidenza e anche come crescita, anche se devo dire che è un fenomeno che ha investito tutta l'economia italiana, per cui è un distinguo in termini di incidenza, ma il fenomeno è abbastanza diffuso. Quindi non c'è un settore, penso alle costruzioni che abbiamo visto nel 2010 andare ancora male rispetto ad altri settori produttivi che invece hanno recuperato in parte, non tutto, il crollo del 2009, non ci sono settori più colpiti dai fallimenti, quindi sostanzialmente dalla bancarotta? Poi all'interno dell'industria, anche qui ovviamente ci sono settori come la metallurgia, come altri che sono più colpiti, per cui andando poi nel dettaglio qualche distinguo è possibile farlo, e questo ovviamente ha avuto anche implicazioni sulle varie aree geografiche a seconda delle densità di alcuni settori rispetto ad altri. Ecco, vedo anche dei messaggi al 349-238-6666 che molti ascoltatori ci chiedono come si sono distribuiti questi fallimenti di appunto più di 11.000 imprese dal punto di vista geografico nel paese, cioè è stato è un dato che si spalma in maniera omogenea oppure no? Ma devo dire che il nord e il centro in termini sia di crescita che di incidenza sono le aree più colpite, meno il sud delle isole, però anche qui ovviamente bisogna tener conto della dimensione media delle aziende, proprio per il fatto che lei citava che la revisione della normativa ha escluso, no, le aziende di dimensione più piccola, per cui queste non accedono neanche alle procedure fallimentari, e l'incidenza nelle diverse aree geografiche dei settori merceologici. Ovviamente l'industria, il settore manifatturiero più presente al nord altri settori anche all'interno del manifatturiero, tipo l'alimentare, che hanno avuto impatti inferiori, e poi ovviamente il settore turistico. Il caso più frequente, voglio dire, nel fallimento di un'impresa, che insomma, capiamo tutti perché un'impresa fallisce, però diciamo, esiste un ideal tipo in qualche modo di come un'impresa arriva a fallire, visto che il numero è molto alto e visto che voi appunto come lavoro fornite informazioni su quanto è solvibile un'impresa alle aziende magari creditrici, no? Per cui qual è il percorso, che cosa è successo? Se lei dovesse diciamo, individuare e disegnare un percorso tipico di chi arriva al fallimento? Ma direi che l'accesso, ahimè, a questo processo parte da una situazione finanziaria, per cui dalle crisi di liquidità che spesso e volentieri hanno poi, ahimè, impatto sulla struttura del conto economico, per cui direi che l'inizio è le detenzioni di liquidità, il circolante, la situazione debitoria, che poi ovviamente ha anche impatti sulla gestione corrente, per cui sul conto economico. Lei ritiene che, insomma, perché ci chiedono anche molto sui segnali per il 2011, i tassi, adesso ne parleremo, andranno a aumentare, però il rapporto banca-impresa sta migliorando, non sta migliorando il rapporto banche-privati, ma banca-impresa sì, ce lo dice oggi la Banca d'Italia. Avete segnali già nel 2011 di un attenuarsi del fenomeno, quindi possiamo archiviarlo come 2010 oppure no? Noi non abbiamo segnali insomma di questo tipo così evidenti, siamo, come dicevo prima, moderatamente ottimisti sulle prospettive, e questo matcha anche con l'analisi che abbiamo prodotto ad ottobre sul Cerve Group Risk Index, che è una misura predittiva del rischio medio di insolvenza delle aziende, e rispetto al picco del 2009 noi abbiamo fatto previsioni ottimistiche, sia per moderatamente ottimistiche, in queste condizioni non si può parlare di ottimismo to cure, per il 2010 e per il 2011, e questo è in linea anche con i dati che abbiamo osservato recentemente. Un'ultima domanda, sì, quanti sono i fallimenti pilotati, dottor De Bernardis? Ossia, fallimento può essere un fallimento in cui tu veramente non riesci più a tenere fronte al conto economico e salti per aria, magari le banche a quel punto non ti danno linee di credito e fallisci. Altra cosa è il fallimento pilotato, cioè laddove si decide, sembra un po' il chapter 11 in America, si decide che la cosa migliore per te è accompagnarti a un fallimento e ristrutturare l'azienda. Nel primo caso è un trauma improvviso, nel secondo caso è invece una terapia dolorosa, ma diciamo molto più guidata. Sì, questo in realtà dalle analisi che noi abbiamo fatto, per cui sulla situazione dei bilanci delle imprese italiane non è così direttamente desumibile, per cui onestamente potrei discutere su questo argomento dando le impressioni personali, però non è un dato non si capisce bene. Valido. No, non è assolutamente. Beh, poi qui c'è anche comunque tutto il tema dell'accesso al concordato preventivo, che ovviamente ha un'implicazione anche sul numero di fallimenti. Tra l'altro, ecco, ci tenevo a dirlo, nel 2010 il concordato preventivo ha subito una frenata, per cui è cresciuto meno dei fallimenti, e secondo me questo è un altro indicatore che ci lascia ben presagire, perché il concordato è molto più congiunturale, ha una risposta molto più di breve rispetto ai fallimenti, che hanno un'onda più lunga. E ecco, quindi lei dice, essendoci stato un più basso ricorso al concordato, che la situazione potrebbe migliorare, nel senso potrebbe essere un segnale che la situazione è in miglioramento? Sì, questo potrebbe essere un indicatore, lo vedremo ovviamente nei mesi a venire. Ecco, gli avevo detto che era l'ultima domanda, però ne ho un'altra che chiedono gli ascoltatori. Sì, visto che voi date informazioni appunto sulle varie società ai loro debitori e quindi date informazioni su quello che è la solvibilità, l'affidabilità, certo, avete visto dilatarsi di molto i tempi di pagamento, che è una cosa un po' diversa ovviamente rispetto a non essere solvibili. Se noi facciamo proprio un'analisi puntuale su quelle che noi chiamiamo esperienze di pagamento, c'è stata una crescita, ahimè non negli ultimi tempi, ma negli ultimi anni, dei tempi di pagamento e quindi delle insolvenze. anche qui qualche segnale positivo inizia a intravedersi, andando a fare analisi più approfondite anche qui per settori merceologici, per aree geografiche o d'altro. Grazie, grazie all'amministratore delegato di Cervet Group, Gianandrea De Bernardis, e speriamo appunto che questi timidi segnali che vedete vengano poi confermati nel 2011. E noi continueremo dopo il metodo e la pubblicità a parlare di imprese, perché come già anticipavo sono usciti dei dati oggi della Banca d'Italia che segnalano un aumento dei tassi per i prestiti fatti dalle banche alle famiglie, ma un calo invece del tasso di interesse che si paga quando il prestito viene fatto alle imprese. Mezzo vuoto, mezzo pieno bicchiere, non sta noi a dirlo, ma c'è comunque anche una notizia positiva. La commentiamo dopo il meteo e la pubblicità. La borsa ha chiuso bene a Milano, più 0,90%, grazie a Pirelli più 3,14, Fiat più 2,5 come Tenaris e Telecom Italia, bene anche Steamark Electronics più 2,2 ed Eni che oggi si risveglia più 2%, in pregiro più 1,6, Intesa più 1,4%. Vi ricordo che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commenteremo tra poco la borsa, ripeto, più 0,94% la chiusura a Milano, la migliore in Europa, bene in America in questo momento più 1%, bene questa mattina l'Asia con Hong Kong più 1,70%, meno bene, più debole, insomma, il Giappone più 0,20%, il Nikkei, euro a quota 1,39. Vorrei però concludere il tema di apertura e quindi alla luce dei dati Cerved, i fallimenti record nel 2010, ne abbiamo appena parlato. L'altro dato che ci interessa è il rapporto della Banca d'Italia su come le banche stanno erogando credito ai privati, quindi alle famiglie e alle imprese. Devo solo rispondere a chi, sono diversi sms, al 349-238-6666, dice: ma non è che molti di questi fallimenti siano pilotati per poi, insomma, non pagare i creditori e ricreare la società il giorno dopo con un altro nome, e è una forma, diciamo, di finto fallimento. In realtà non vuoi pagare i creditori, non vuoi ristrutturare seriamente il tuo debito, e questo potrebbe anche giustificare il dato sulla natalità e la mortalità delle imprese. Appunto, sono nate più imprese di quante sono morte nel 2010. Può essere che questo sia il meccanismo, però come ricordava il numero del Cerved, non abbiamo obiettivamente la capacità di verificarlo. Dicevamo invece la Banca d'Italia, allora parliamo del rapporto banche imprese, banche famiglie. E allora affrontiamo i dati di oggi della Banca d'Italia, innanzitutto guardandoli dal punto di vista di chi è oggetto di credito da parte delle banche. Ripeto, mutui e prestiti più cari per le famiglie a gennaio, mentre una lieve limatura per i tassi sul credito alle imprese. Nel caso specifico, i tassi sul credito al consumo sono saliti di quasi mezzo punto, dall'8,3% all'8,8%. A gennaio rispetto a dicembre, e anche i mutui sono saliti dal 3,18% di media al 3,36%, e per i mutui alle famiglie a livello più alto dal dicembre 2009. Cale invece il costo del credito per le società. A gennaio i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese sono diminuiti di 10 punti base, e cioè al 2,69%. Soprattutto sono calati i tassi per i prestiti alle imprese superiori al milione di euro, dal 2,56% al 2,36%, invariati invece quelli per gli importi inferiori al milione di euro. Sono anche aumentati i prestiti alle imprese, nel senso che il tasso di crescita è stato del 4,8% dei prestiti alle imprese contro il 3,6% di dicembre, e anche il tasso dei prestiti alle società non finanziarie è raddoppiato dal 2% di dicembre al 4,2%. Allora parliamo innanzitutto con chi appunto è oggetto di credito. Le piccole imprese sono di solito quelle più a rischio per struttura e anche tradizionalmente nei rapporti con la banca. Siamo in collegamento col presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera a lei. Mi sembrano complessivamente dei dati per voi, meno per le famiglie, ma per voi positivi. Lei ha trovato riscontro anche tra i suoi associati? Due considerazioni. La prima è che chiaramente emerge, diciamo, la capacità reattiva delle imprese di ristrutturare i propri debiti. È evidente che la questione riguarda chi ha utilizzato molto il debito a lungo rispetto al breve. Chiaramente invece sul breve riscontriamo degli aumenti. È evidente che in questa fase, anche utilizzando il tasso, diciamo, basso, conviene, come dire, ristrutturare il debito e portare tutto a lungo. Questo però riguarda una constatazione fino ad oggi, o se volete fino a ieri. Il problema adesso è che cosa accadrà nel futuro, perché la tendenza al rialzo dei tassi sul medio termine è abbastanza evidente da quello che ascoltiamo. E questi i due elementi che lei giustamente mette in evidenza. Dall'altro lato però non è un mistero che l'abbiamo letto oggi nella dichiarazione di Axel Weber, del numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca. Insomma, tutti si attendono un rialzo dei tassi verso aprile da parte della Banca Centrale Europea. Axel Weber ha detto appunto fino a 3/4 di punto, cioè fino a 75 punti base, fino allo 0,75 in più. Questo lei prevede possa generare dei problemi o una nuova stretta sul credito alle piccole imprese, che ripeto sono quelle più esposte delle volte alle valutazioni della banca e anche più fragili su questo? La nostra posizione è quella di essere attenti all'economia reale. Un incremento dei tassi che però non corrisponde a una fase espansiva strutturale dell'economia potrebbe sicuramente contribuire in negativo a una dimensione di ristrettezza creditizia. Se poi aggiungiamo a questo un'anticipazione della questione dei parametri di Basilea 3, che potrebbe comportare un altro effetto di liquidità, è evidente che questo potrebbe generare qualche premura. Quindi la questione è se tutto quello che accade non è in sintonia con la dimensione dell'economia reale, con le fasi economiche, corriamo, diciamo, un po' di rischi. Ecco, su questo però vorrei cercare di uscire anche dalla cronaca. Adesso sentiremo poi il Cerved che ci racconterà come in realtà i fallimenti siano, quanto siano aumentati i fallimenti di imprese di qualunque genere, anche imprese dei servizi, di commercio, artigiane, l'anno scorso. Abbiamo avuto un buon dato però, Presidente Boccia, da Union Camera la settimana scorsa, perché è tornata a essere in attivo la differenza tra nati e morti nel mondo delle imprese, cioè c'è stata una demografia positiva, ecco, nelle nuove imprese che si sono create nel 2010. Mi sembra di poter dire però che in questo momento, al di là del piccolo cabotaggio, come si muovono i tassi, serve una riflessione complessiva, cioè siamo usciti, ma almeno così sembra, dalla crisi nella parte più brutta. C'è ancora qualche incognita sui debiti sovrani di alcuni paesi a rischio, ma insomma la Germania è completamente ripartita, la Cina ha il problema opposto al nostro, cresce troppo e c'è un po' troppa inflazione, la Banca Centrale Europea va a rialzare i tassi. Non sarebbe il caso a questo punto di sedersi e superata l'emergenza definire anche quali sono gli obiettivi, magari pochi, per tutto il sistema produttivo del paese, un po' gli stati generali dell'economia che ha chiesto anche oggi sul Foglio il ministro Brunetta? Beh, su questo lei sfonda una porta aperta. Il 7 maggio a Bergamo realizzeremo le assise generali di Confindustria. Sono oltre 10 anni che non si organizzava più un'assise generale del sistema. Avremo un momento di coinvolgimento e di mobilitazione dell'intera base associativa di Confindustria per sottolineare due aspetti, uno di contenuto e un altro, come dire, di comunicazione interna ed esterna. Di contenuto dibatteremo su una idea di intervento organico di politica economica, perché in un paese, ed emerge anche dai dati del Cerved che lei indicava, in cui il tasso di imprenditorialità è 3 volte superiore alla media europea, questi sono dati Istat, è un paese tra l'altro che potrebbe costruire dei livelli di potenzialità elevatissimi in termini di sviluppo dell'economia. La richiesta è forte, l'aspettativa è alta di tutti noi, della stessa Confindustria, di ogni nostro associato, e quindi in quel momento l'idea di lanciare una piattaforma di politica economica all'attenzione del Paese diventa un valore. Noi condividiamo questo aspetto, tra l'altro ci sono delle premure che sono anche delle opportunità. Le premure appunto sono la questione tassi di interesse, non dimentichiamo anche la questione materie prime, quindi aumenti delle materie prime, speculazioni che viviamo e subiamo come economia reale sulle materie prime, ma ci sono anche delle opportunità legate ad altri paesi che crescono, alla capacità reattiva del tessuto industriale italiano di riposizionarsi. Siamo comunque il secondo paese manifatturiero dopo la Germania. E allora la domanda che porremo il 7 maggio è: quali potenzialità il Paese potrebbe avere se riuscisse a superare alcune questioni fondamentali e si orientasse allo sviluppo? Che cosa l'Italia potrebbe essere rispetto al mondo? E secondo me potrebbe essere, secondo noi, una grande Italia, un'Italia forte in termini economici, che significa anche un'Italia forte in termini politici rispetto al mondo. Quindi, diciamo, se ho ben capito, il 7 maggio prossimo a Bergamo migliaia di delegati della Confindustria, quindi lei ricordava, da più di 10 anni non si facevano le assise generali del sistema produttivo italiano, e voi pensate di uscire con un documento? Immagino che Bergamo l'abbiate scelta perché è la capitale dei mille, penso, ma no, insomma, la città dei mille. Bergamo l'abbiamo scelta per vari motivi. Uno, perché diciamo c'è la consapevolezza dell'industria italiana, del proprio ruolo nel mondo associativo e in patria, 150 anni, come dire, dalla nascita dell'Italia. E poi Bergamo rappresenta una provincia importante italiana, una provincia di una regione importante, quindi un simbolo di un modello diffuso di capitalismo industriale e democratico che a noi piace molto, e quindi ha una sua anche simbolicità di innovazione molto, manifatturiero, sì, e di impresa. Ecco, ma dicevo, al di là della città, mi scusi, ma uscirete da Bergamo, da questa assise, da questi stati generali, diciamo, della Confindustria, con una proposta e un documento per il governo? Perché poi, quando parliamo degli stati generali dell'economia, noi intendiamo dire una cosa molto semplice. Vedo che alcuni ci chiedono al 349-238-6666 che cosa sono questi stati generali, cioè metti assieme tutti i soggetti che rappresentano la parte produttiva del paese, servizi, manifattura, i sindacati, associazioni di categorie, e assieme al governo, per definire con un insieme di interventi quelli che possono essere gli obiettivi comuni del paese. Voi pensate di uscire con un documento di questo tipo dalle assise? Sì, le assise arriveranno proprio a questo punto, con una serie di incontri preparatori che faremo in tutta Italia, che la Presidente Marcegaglia realizzerà. Sono delle piattaforme aperte, l'idea di uscire dalle assise con una piattaforma condivisa e comune di Confindustria da porre all'attenzione delle altre parti sociali, per condividerla in tutto e in parte e portarla all'attenzione chiaramente del governo, sottolineando l'importanza di un'attenzione che chiediamo allo sviluppo, nella sostanza finanziare sviluppo e non la disoccupazione. Grazie al presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Arrivederla, grazie a lei. Vedo che molti scrivono di nuovo sulla Banca Centrale Europea, sulla quasi certezza che entro aprile aumenterà i tassi di interesse. Poco fa ne ha parlato anche Nouriel Roubini, che è Mr. Doom, l'uomo che per primo, l'economista che per primo predisse la crisi, così perlomeno è passata la storia, e ha detto: attenzione, perché la Banca Centrale Europea, se alzerà i tassi di interesse troppo presto, strangolerà la ripresa economica sul nascere. Di questo parleremo dopo il traffico e dopo la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa dunque, bene Milano, grazie a molti conti oggi diffusi, Pirelli, ma non solo, anche Saipem. Milano guadagna lo 0,94%, mentre Parigi fa più 0,60%, Francoforte è invariata, Londra invariata anch'essa, l'America guadagna l'1%, dicevamo bene Pirelli per i conti, e non è l'unico titolo. Ha sorpreso, e cercherò adesso di capire anch'io perché, invece l'andamento di Autogrill. Ossia, Autogrill oggi ha diffuso i conti, che sono buoni, perché nel 2010 ha fatto un vero e proprio balzo l'utile e anche il fatturato, più 7%. L'utile, pensate che è passato da 37 milioni del 2009 a 103 milioni nel 2010. Il gruppo è tornato a distribuire un dividendo, quindi a distribuire l'utile agli azionisti, pari a 24 centesimi di euro per azione, cioè il 60% dell'utile ha distribuito. Eppure il titolo ha perso il 5,1%, è il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione ed è anche il peggiore, quasi il peggiore di tutto il mercato, dopo Casa Damiani che perde il 6,40% e Vita, società editoriale, che perde il 6,80%. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Autogrill. Autogrill, insomma, risultati che a sentire gli operatori erano stati un po' scontati dal mercato, ma al di là di questo ciò che è stato deludente sono state le previsioni, la cosiddetta guidance sul 2011, ricavi consolidati e margine operativo lordo che la società Autogrill prevede all'incirca in linea con quest'anno. In più il gruppo ha detto che il livello medio del prezzo del petrolio, attualmente molto alto, potrebbe condizionare gli scenari di traffico aereo e anche stradale, quindi diminuire gli incassi per il gruppo. Insomma, quindi sono state le proiezioni sul 2011 che hanno un po' spaventato gli operatori. Sì, un po' tanto, mi sembra. Comunque, vabbè, questo è quello che ha fatto oggi il mercato, che devo dire oggi si è mosso una volta tanto su notizie vere e non su analisi, report, target price e questa roba qua. Notizie vere si chiamano i bilanci, Autogrill, ma si chiamano anche le commesse, cioè quando vinci un ordine. Questo è il caso di Finmeccanica, che si è aggiudicata commesse per 320 milioni di euro attraverso Augusta Westland, DRS Technologies, Selex Sistemi Integrati, Selex Galileo, Ansaldo CTS, Selex Communication. Il titolo. Sì, Finmeccanica si è, come hai detto tu, si è mossa molto bene, in particolare c'è Ansaldo, sì. Una controllata di Finmeccanica più 1% grazie a questo nuovo contratto conquistato in Arabia Saudita, un contratto di 35 milioni di euro, ma che comunque sommato agli altri di cui accennavi ha scatenato gli acquisti sul titolo. Si è mossa anche qui su attese per le nomine, ma soprattutto sull'operazione di fusione ipotizzata tra T-Mobile USA e un'altra società americana, la Sprint. Si è mosso, dicevo, anche Telecom più 2,33%. Sì, diciamo che tutto il comparto TLC europeo è stato molto galvanizzato da questa ipotesi che è circolata nelle ultime ore. Telecom in più ha anche il propellente, il turbo delle nomine in arrivo nelle prossime settimane, e quindi il titolo si è mosso con decisione verso l'alto, abbondantemente sopra quota 1,1 euro. Anche su Pirelli notizie di mercato, meglio i conti del 2010, i conti sono stati buoni, l'utile netto è a 4.200.000 euro, il dividendo è salito a 16 centesimi di euro per azione. Il titolo? Il titolo è stato il migliore del FTSE MIB, più 3,3%, tu accennavi a un utile, l'anno scorso il bilancio si era chiuso con un rosso di 22,6 milioni, ma ricordiamo che su quest'anno c'è anche un impatto negativo legato alle attività dismesse di Prelios e Broadband Solutions di 223 milioni, quindi senza queste componenti l'utile sarebbe stato ben più elevato. In più, contrariamente ad Autogrill, Pirelli ha alzato i target per il 2011. Cioè gli obiettivi, diciamo. Sì, gli obiettivi di bilancio per quanto riguarda i ricavi, e quindi questo è stato molto apprezzato dal mercato. Ancora sui conti, il gruppo Espresso, risultato in forte recupero nel 2010 per il gruppo Espresso, che quindi edita anche La Repubblica, a quota 50 milioni e i ricavi si sono attestati a 885 milioni di euro. Tra l'altro vi sarà un dividendo di 7 centesimi e mezzo di euro per azione. Praticamente appunto i ricavi sono il risultato netto è arrivato a 50 milioni contro i 6 milioni del 2009, quindi netto miglioramento. Saipem, l'utile 2010 sale a 828 milioni con un dividendo a 60 centesimi di euro per azione. Il titolo? Il titolo, diciamo che non ha reagito particolarmente a quanto è emerso in borsa, ha fatto più 0,4%, quindi poco sotto la linea del mercato. Ma questi sono... Che sai, diciamo, fa impiantistica per petrolio, è strano infatti però che si sia mosso così poco. Oddio, il titolo era andato bene anche in questi mesi, Sì, ma poi le utility oggi non sono andate granché bene, Eni l'ha fatto più 0,09. Eni però un più 2% l'ha portato a casa oggi, mi sembra di ricordare, 1,70 in realtà, 1,70. Ancora, tra i titoli, Fondiere Assai meno 2%, che succede? Ieri entusiasmo, oggi... Ma ieri soprattutto speculazione. Oggi, stando a quanto affermato da alcuni quotidiani, da quanto è emerso in giornata, c'è stato un incontro tra i Ligresti e i dirigenti di Asema, che è presidente di Groupama, che potrebbe far emergere un riassetto dell'attuale piano di ingresso di Groupama in Prema. Finfonsa ieri era cresciuta molto, oggi realizza, è probabile che domani con nuove notizie che potrebbero emergere sul riassetto della galassia Ligresti potrebbe tornare a crescere. Ultimo titolo, quello migliore e peggiore in assoluto, il peggiore l'abbiamo detto, il migliore è Meridiana Fly, Meridiana più 9%. Ma su Meridiana tornano a farsi sentire voci di una possibile integrazione con Alitalia, il titolo già a febbraio aveva registrato dei rialzi record proprio su questa ipotesi, oggi in borsa sono tornate a circolare queste voci, in descrizione comunque ribadiamo non confermate. E però qualcosa si muove, quantomeno sulle indiscrezioni, perché anche tu ricordavi, è già la terza volta almeno che le commentiamo. Grazie a Cio Condi, Radio Colli sulle 24 ore, il GR, poi parliamo dei rischi sul 2011, i tassi di interesse in aumento, gli spread, ossia il rischio paese su Grecia e Portogallo, oggi torna a salire, è lungimirante la Banca Centrale Europea o sta per strangolare la ripresa sul nascere? La risposta forse dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver commentato il dato diffuso oggi dal CERVED sul record di fallimenti nel 2010, ma aver anche raccontato quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia sull'andamento dei crediti alle imprese e alle famiglie, ricordo sono aumentati i tassi praticati per le famiglie, sono leggermente calati quelli per le imprese, soprattutto per prestiti superiori al milione di euro. Arriveremo a brevissimo all'altro grosso tema di oggi e mi riferisco a tutti i mercati che si muovono verso un aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ma anche l'allarme lanciato da Rubini e le dichiarazioni invece del numero uno della Banca Centrale Tedesca, Axel Weber, che ha detto entro il 2011 i tassi cresceranno di 75 punti base. Prima di questo però alcune notizie in breve, soprattutto per quello che riguarda la Corte Europea, che ha bocciato la proposta di un tribunale ad hoc, un tribunale apposito per il brevetto europeo. È una vicenda molto complessa. L'Italia si oppone al trilinguismo inglese, francese e tedesco per brevettare per i brevetti. Questo era il tribunale europeo dedicato appunto ai brevetti, era uno dei pilastri del pacchetto comunitario, infatti i vari paesi europei si sono mossi per aggirare l'ostacolo italiano, il veto italiano, con accordi bilaterali, la cooperazione rafforzata. La Commissione europea dice che non vi sarà un impatto dal parere della Corte europea di giustizia, ma l'Italia esprime grande soddisfazione per la decisione della Corte di giustizia. Sentiamo al microfono il nostro Sergio Nava, il commissario e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Non so se questa decisione può bloccare la cooperazione rafforzata, se ne domani c'è un consiglio competitività e sarà il tema anche all'ordine del giorno, ritengo, e sarà il commissario Barnier poi affrontare con i rappresentanti dei paesi che hanno deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata su come procedere. Per il momento Bruxelles ha detto non cambia nulla, però è effettivamente un'ipotesi realistica, oppure venendo a cadere questo pilastro del Tribunale Europeo dei Brevetti bisognerà ripensare un po' tutta la strategia? Io non credo che possano esserci modificazioni profonde di decisioni già adottate. Così il commissario, il vicepresidente della Commissione europea Tajani sul brevetto europeo. Mentre sul fronte rinnovabili, molti ci stanno scrivendo in questi giorni se ci sono novità. No, il governo ha fatto capire che gli incentivi rinnovabili saranno rimodulati, ridotti, sulla base anche di quando si raggiungerà il tetto previsto, 8.000 megawatt nel caso del solare. Oggi però sul tema è tornato il ministro all'ambiente Stefania Prestigiacomo. La Presi Giacomo ha chiesto di convocare immediatamente il tavolo per arrivare nell'arco di 20 giorni a definire un nuovo regime. Sono coloro i quali movimentano rifiuti speciali, che sono la maggioranza dei rifiuti prodotti in Italia, l'80% dei rifiuti dell'intero ammontare dei rifiuti sono speciali, dentro i quali ci sono anche i rifiuti pericolosi, quindi coloro i quali producono e movimentano questi rifiuti sono i destinatari del SISTRI e dovranno attenersi, perché ormai è un obbligo di legge, all'iscrizione presso il sistema, all'acquisto delle apparecchiature. Questo consentirà allo Stato di poter tracciare, cioè di controllare in tempo reale la movimentazione dei rifiuti in Italia, tutto ciò sostituendo un sistema cartaceo che è in vigore tuttora fino a giugno, quando entrerà in funzione definitivamente il SISTRI, solo il SISTRI, quindi andrà in soffitta il vecchio sistema cartaceo, che era molto oneroso e anche inutile, perché le informazioni del cartaceo venivano raccolte a livello centrale dopo 2 anni, quindi nessun controllo reale di ciò che accadeva sui rifiuti speciali in Italia. Sono battuta perché si anticipasse di un mese, dal 1° di giugno al 1° di maggio, al 30 di aprile, la definizione del nuovo quadro degli incentivi, ma se lo facciamo prima non è che ci rimprovera qualcuno, anzi è forse meglio. Quindi se il tavolo viene aperto immediatamente, io credo che nell'arco di 20 giorni, anche con un confronto finalmente di merito con tutti gli operatori del settore, noi potremo definire un nuovo sistema di incentivi che moralizza un po' questo settore, perché che noi oggi abbiamo gli incentivi più alti d'Europa è un dato reale, riconosciuto da tutti, e gli operatori sono prontissimi ad accettare una riduzione degli incentivi. Ovviamente quello che vogliono è un quadro di certezza, perché io so che Romani incontrava anche il sistema bancario, l'ABI, proprio perché tutti chiedono ovviamente di capire se ci saranno obiettivi in termini di potenza più alti, e io posso confermare che questo è lo spirito. Cioè, noi cosa dobbiamo evitare? Dobbiamo evitare che si concentri un'espansione del fotovoltaico in un periodo di tempo molto stretto, perché poiché è a carico della bolletta dei cittadini, è chiaro che noi non possiamo consentire che i cittadini, diciamo, abbiano un rincaro. Eh sì, perché non solo di incentivi e di tassi di interesse parliamo oggi. Ieri abbiamo dato un ampio spazio ai temi che riguardano il mondo, temi che riguardano il mondo delle donne, quote rosa, quote di genere, ma non solo. Oggi c'è un dato Istat che però la dice lunga su quanto sia la categoria donna e giovane a pagare di più la crisi in questo momento. Fra i giovani che non studiano né lavorano, i cosiddetti NEET, prevalgono infatti purtroppo le donne, 1.153.000 nella parte più giovane, quindi dai 18 ai 29 anni. E sempre alle donne giovani, soprattutto se abitano al sud, spetta il primato negativo della disoccupazione, punta del 53% al sud, e anche dell'impegno nel lavoro familiare rispetto al tempo libero. Più della metà delle giovani ha infatti un grossissimo impegno per quello che riguarda la gestione della famiglia, del lavoro familiare, rispetto ai loro coetanei maschi. Su questo purtroppo non ci attendevamo un dato diverso. Quasi una laureata su 3 però che non studia più né lavora è al sud, ma anche al 30%, ma anche al nord la percentuale di chi non lavora né studia è alta, il 21%, il 25% poi nel centro. E poi il dato dell'Istat: per la maggior parte delle donne il part-time non è una scelta, per 3 donne su 5 in Italia il part-time non è una scelta ma un ripiego necessario. La percentuale di donne giovani in part-time è tripla rispetto a quella maschile, il 31% contro il 10%, e si mantiene elevata anche tra le laureate, il 24%. Speriamo, speriamo il prossimo anno di commentare dati diversi. Adesso però il traffico e poi questa Banca Centrale Europea che sta facendo arrabbiare molti ascoltatori. Devo dire, tutti i mercati si stanno già muovendo come se il rialzo dei tassi fosse già avvenuto. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, dicevamo dunque dell'altro grosso tema della giornata, il petrolio. Volete sapere, il petrolio oggi non ha fatto nuovi record, è leggermente calato a Londra, $114 contro i $115 di ieri, in rialzo a New York a $105, poi è arrivata poco fa la dichiarazione dell'economista chiamato Mr. Doom, colui che per primo predisse la crisi, mi riferisco a Nouriel Roubini, ha detto: attenzione, con un petrolio a $140 alcune economie potrebbero andare in recessione addirittura, e ha invitato la Banca Centrale Europea a non commettere l'errore di alzare i tassi, quindi il costo del denaro, troppo presto, che sarebbe un grave errore se lo facesse in maniera inappropriata. Allora parliamo di questo, perché nel frattempo invece gli spread, ossia la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca, portoghese, spagnola, quanto rende la stessa obbligazione tedesca, sono tornati ad aumentare. Più uno Stato è a rischio, più deve offrire un interesse alto per trovare finanziatori per le sue obbligazioni. La Grecia oggi ha collocato 1.600.000.000 di titoli di Stato, ha dovuto pagare rendimenti più alti, di quasi dal 4,6 al 4,75%, però la domanda c'è stata buona, un po' in rallentamento, 3,5 volte contro le 4,5 volte di un mese fa. Aumenta la tensione nel frattempo, come dicevamo, su tutti i titoli di Stato dei paesi periferici, come si chiamano, dell'area euro. I BTP decennali portoghesi hanno visto crescere il rendimento al 7,6%, la differenza con gli equivalenti tedeschi a questo punto è vicina al record del 4,3% di rendimento, siamo al 4,3% vicini al 4,5% che è il record. In aumento anche le obbligazioni spagnole a 10 anni al 5,45%, anche qui aumenta la differenza con il rendimento tedesco del 2,1%, e anche l'Irlanda che ha dovuto pagare il 9,4% per i suoi titoli a 10 anni, il 6% a differenza con quanto rende l'equivalente tedesco. Più contenuto l'impatto sui titoli italiani, il tasso nostro è 4,9%, la differenza con la Germania è l'1,6%. Professor Mario De Aglio, buonasera. Buonasera a lei. Allora, un po' che non ci sentivamo, lei insegna economia internazionale all'Università di Torino, è editorialista della Stampa, ogni anno fa il rapporto con la Fondazione Einaudi sullo stato di salute dell'economia. Andiamo subito al punto. Sbaglia la BCE ad alzare i tassi, visto che ormai tutti ci credono? Diciamo che non sappiamo ancora di quanto li alzerà. Se dovesse fare un innalzamento simbolico, diciamo 0,1 per esempio, tutto sommato non sbaglierebbe. Se invece facesse un innalzamento importante 0,5, allora sbaglierebbe di sicuro. Nel mezzo c'è un'area grigia dove è difficile avere delle risposte chiare al momento attuale. Allora, cosa vuol dire, chiedo un ascoltatore, 70 punti base? Praticamente se il tasso di interesse è all'1%, 70 punti base vuol dire portarlo all'1,7%, di solito si va a quarti o a blocchi di quarto di punto, quindi in realtà secondo Weber, secondo la Bundesbank, arriverebbero fino all'1,75% i tassi di interesse. Questo vuol dire 75 punti base. Se fosse come dice la Bundesbank, che sappiamo avere un certo peso sulla Banca Centrale Europea, sarebbe troppo per lei? Secondo me sì, cioè questi signori non si accorgono che un debitore disperato è un grosso pericolo. E già adesso i nuovi governanti irlandesi parlano di rivedere gli accordi. Che cosa succederebbe mai se un giorno un primo ministro di uno di questi paesi andasse in televisione a dire: cari signori, pazienza, noi non paghiamo, punto. Dopodiché saltano le banche tedesche, il signor Weber avrà il suo da fare. Ecco, è passata sotto silenzio invece un'altra dichiarazione di un altro governatore di una banca centrale, e non da poco, perché lui si chiama Mervyn King, ieri l'abbiamo letta, è il presidente della Bank of England, quindi la banca centrale inglese. Ieri ha detto: non, le banche e i banchieri non hanno imparato nulla da questa crisi, dato che i bonus continuano ad essere staccati, gli affari si fanno sempre sulle spalle dei risparmiatori e la leva finanziaria è tornata ai livelli pre-crisi. La leva è, diciamo, la misura della speculazione. E ha aggiunto: gli atteggiamenti dei bankers, quindi dei banchieri, che dopo 2 anni di remissione sono tornati a spendere cifre folli per feste ed altri eventi. Secondo lei ha ragione? Sì, credo di sì. Credo che Mervyn King sia uno degli osservatori più intelligenti della scena mondiale e che abbia diagnosticato le cose giuste. Siamo di nuovo sul vuoto, ma se errare è umano, perseverare nell'errore è diabolico, quindi siamo di fronte a una cosa diabolica. L'unica piccola cattiveria, la piccola cattiveria che si potrebbe fare è di dire: ma scusi, lei dove era in questi 2 anni, visto che ha continuato a fare… Sì, e dove erano anche le autorità centrali europee, perché non è solo, non sono solo i banchieri inglesi, pure i francesi, gli italiani… Sì, è facile in un certo senso lamentarsi adesso, ma forse qualche cosa di diverso andava fatto prima. E vorrei tornare alla domanda iniziale, ma non è che in realtà, mi faccio difendere la Banca Centrale Europea, alzare i tassi di interesse, rendere il denaro più caro, non sia anche un modo per dare un segnale alle banche: ragazzi, la festa è finita, tutto il salvataggio che abbiamo messo in piedi in questi 2 anni, adesso andiamo a riprendercelo, andiamo un po' a prosciugare l'acquario, e quindi anche dare un messaggio alla speculazione, perché quando il denaro costa nulla, come spesso spieghiamo, c'è un invito a nozze per la speculazione, perché tanto prenderlo in prestito ti costa meno del tasso di inflazione, per cui c'è una marea di liquidità che si muove soprattutto sulle materie prime alimentari e non. Certo, sì, questo può essere. Io credo che abbia ragione Wolfgang Münchau, che ha scritto sul Financial Times di ieri, mescolando ragioni politiche di equilibri con ragioni economiche. Ragioni politiche di equilibri che Trichet può aver voluto far vedere che non c'è bisogno dei tedeschi per alzare i tassi. Infatti Weber non era alla riunione, hanno deciso lo stesso che li alzeranno. E difatti la dichiarazione di oggi di Weber è per non perdere il giro, insomma, perché in qualche modo l'hanno sì, fatto. Sì, posso dirle con una battuta che riferita a Weber e a Trichet, chi se ne frega di loro due. Cioè, nel senso che qua i tassi vanno a toccare i mutui dei privati cittadini, i prestiti concessi dalle banche alle imprese. Cioè, io ho capito che la Banca Centrale Europea vuole dimostrare ai tedeschi che ce la fa anche da sola ad alzare i tassi, ma mi sembra un po' una gara così, suicida. Purtroppo quando si vive nelle torri come quella di Francoforte della Banca Centrale si tende a dimenticare il mondo reale e a concentrarsi sulle piccolezze del loro interno. Però l'altra motivazione potrebbe essere più, diciamo, più generale, più seria, forse. Più seria è quella che di fronte a un'ondata di inflazione che viene dall'esterno, se uno dicendo che alza i tassi fa comunque salire il cambio, perlomeno mette l'Europa un poco al riparo da questa ondata. E non è tanto poco, In definitiva l'apprezzamento dell'euro in questi giorni è stato notevole. Naturalmente questo vuol dire che gli esportatori hanno più difficoltà, non si può avere tutto, la situazione è di crisi per tutti. Ecco, mi scusi, se veramente dovessero, professor Daglio, aumentare i tassi magari in 2 o 3 volte di 25 punti ogni volta fino ad arrivare a 75 punti complessivamente, questo sancirebbe secondo lei di fatto e per un po' l'Europa a 2 velocità? Perché voglio dire, la Germania probabilmente non avrebbe grossi problemi, tutti i paesi con un alto debito che devono rinegoziare il debito ogni mese, Grecia, Spagna, Portogallo e anche l'Italia, vedrebbero invece arrivare una frenata alla loro crescita economica che già è debole. Questo direi di sì, direi che è una politica pericolosa proprio perché questi paesi esasperati e disperati potrebbero poi non comportarsi secondo il galateo e quindi dire: va bene, io non pago, che non vuol dire così fatalmente non pago, ma ristrutturiamo il debito, facciamo altre cose, se devo andare in recessione, se devo sopportare, insomma l'economia greca è massacrata da questa cosa, l'economia irlandese lo sarà. i portoghesi forse un po' meno, perché sono in qualche modo più, meno sensibili a queste cose, ma forse nella torre di Francoforte non si rendono conto di tutto questo, un bel giorno gli casca poi addosso. Sì, è un po' alta questa torre, vedono tutto quanto molto dall'alto e poco dal basso. Comunque, grazie come sempre per la chiarezza e la sintesi a Mario De Aglio, che è appunto insegna economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Grazie a lei, buona serata. Staremo a vedere, per ora ripeto, tutti i mercati delle obbligazioni si sono mossi in tal senso ed era la notizia più importante sul fronte dei mercati di oggi, era anche l'ultima notizia di questa puntata. Da parte di Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.